Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per me, io ho segnato per un'operazione Sicilia, vuol dire prendo una macchina con l'esplosivo dentro per fare un'operazione contro il Kofar, inshallah. È questa una delle comunicazioni intercettate a parlare un foreign fighters dall'Iraq e un cittadino macedone dall'Italia. Entrambi raggiunti da un'ordinanza di custodia per associazione con finalità di terrorismo. Parole significative dunque quelle ascoltate che hanno fatto scattare l'operazione del ROS portando in carcere anche un terzo uomo. Il tutto è iniziato quando i carabinieri della compagnia di Roma Centro hanno arrestato lo scorso novembre Vurnet Makuelara, conosciuto anche come Carlito Brigande, il macedone raggiunto in carcere dal provvedimento emesso dalla Procura di Roma. Barumi e Brigande avevano trascorso insieme un periodo di carcere durante il quale il primo aveva radicalizzato il macedone. Nell'operazione è coinvolto anche un terzo uomo, Abdullah Kurtisci, anche lui macedone, in contatto con Brigande, già ricercato perché evaso da un carcere del suo paese dove scontava una condanna ad 8 anni per rapina. Era arrivato in Italia lo scorso ottobre usando documenti falsi, è stato quindi arrestato per evasione, ma le indagini sono ora finalizzate ad accertare un eventuale suo supporto la causa jihadista. Il problema del terrorismo di matrice islamica per noi diventa impellente quando ogni volta abbiamo le notizie, le cronache ci ricordano o ci danno segnalazione di un attentato o di un arresto. Abbiamo una generalizzata percezione che qualcosa stia accadendo attorno a noi, nel mondo che sta cambiando, nella società che sta mutando, nelle persone che stanno alternandosi rispetto alle nostre abitudini di incontro, di percezione attorno a noi. Esistono però delle aree solitamente chiuse alla società che banalmente conduce una vita quotidiana tranquilla, in cui è più facile che si scateni la scaturigine, il crogiolo di quello che noi poi mal definiamo come una sorta di senso di malessere generalizzato, di paura, di inquietudine, di qualcosa che potrebbe accadere ogni momento negli attimi che più inaspettati e attraverso e per mano di persone che, con le quali magari abbiamo rapporti quotidiani indifferenti. Il luogo fisico in cui probabilmente in questo momento si sta centrando l'attenzione di chi studia questo fenomeno e di chi in qualche maniera cerca di arginarlo, di prevenirlo, è le carceri. Noi di carcere abbiamo spesso parlato come un problema di sovraffollamento, un problema di mancanza di spazi vitali. Oggi parliamo del problema delle carceri legato proprio alla permanenza nelle carceri di probabili potenziali terroristi. Il terrorista, la tipologia del terrorista che in questo momento più ci inquieta è una persona che fondamentalmente è sradicato, una persona che viene da un paese e vive, nasce anche molte volte, ha un'educazione, una scuola, una vita sociale in un altro paese che non è il suo, differente dal suo. In questo momento quelli che sono gli elementi di integrazione che sembravano le molle più immediate per vivere una vita felice sembrano interrotti. Sembra che ritorni una sorta di richiamo delle terre d'origine, come se fosse una sorta di chiamata alle armi per recuperare, restaurare una sorta di dimensione mentale, dimensione spirituale, dimensione di riconoscimento delle persone a lui simili che normalmente sembrava far parte di un passato. Beh, questo senso arcaico richiamo a una guerra contro ciò che è a noi diverso ha nelle carceri, questo perlomeno è quello che dicono gli osservatori, il suo primo luogo di attenzione. E oggi di questo parliamo con persone che conoscono la materia. Tra un istante. Melog, cronache meridiane. Per affrontare il problema del terrorismo islamico, ma soprattutto della radicalizzazione che avviene nelle carceri, ci sono testimonianze recentissime anche per le carceri italiane. Domenico Quirico, giorni fa, ha intervistato per La Stampa un jihadista che è diventato tale proprio nelle carceri italiane. Racconta com'è il percorso. Naturalmente ti senti solo, ti senti isolato, ti senti non protetto, viene qualcuno e ti si offre di proteggerti. È esattamente quello che era il meccanismo una volta che funzionava per l'affiliazione alla malavita organizzata. poi ti fa un racconto suggestivo, ti dà dei punti di forza, ti parla di questo epico califfato, ti parla insomma di una trascendenza, insomma ti sembra l'unico appiglio per poter sopravvivere e diventi improvvisamente un jihadista. Anche a Roma, lo dicono le cronache, qualche giorno fa, martedì di questa settimana, è stato capito che un tunisino reclutava in cella altri suoi possibili jihadisti. Era detenuto a Rebibbia, ci sono vari sospetti con i terroristi di Berlino, pare ci siano 400 jihadisti liberi in Italia, e le carceri diventano un fulcro, un luogo centrale in cui le persone hanno possibilità, tempo e leve emotive per fare il loro proselitismo. Chi sta studiando in maniera scientifica, con un metodo diciamo di ricerca universitaria, questo problema è Vincenzo Maria Mastronardi. Professor Mastronardi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Mastronardi è un criminologo clinico, è uno psicopatologo forense alla Sapienza Università di Roma, e sta facendo un lavoro dettagliato, ha scritto un libro per la Newton Compton assieme a Silvia Leo, Terroristi, che fa un excursus dal Brigate Rosse all'Ira, dal terrorismo basco al terrorismo turco, dal PKK al terrorismo ceceno, fino ad arrivare appunto a Al Qaeda. Il passo successivo rispetto a questo libro è questa ricerca, per cui avete avuto anche un premio, un riconoscimento, mi pare. Abbiamo avuto il riconoscimento di una ricerca, quindi, che stiamo avviando adesso con varie carceri internazionali. Importante tutto quanto quello che stiamo esaminando, perché non ha a che fare solo con ciò che nelle carceri è possibile fare. Importantissimo, chiariamoci, importantissimo procedere quindi con il non lasciar soli coloro che in un momento di vuoto di potere logico, critico, analitico, quale quello della carcerazione, possono essere facile preda di... Ma quali sono gli strumenti? Ricostruiscono, danno degli strumenti per ricostruire un'identità a persone che in quel momento non ce l'hanno. Esatto, possiamo dire in termini elementari così. In realtà è tutto un brainwashing, proprio per il brainwashing, il lavaggio del cervello avviene per gradi, ovvero sia da prima la love bomb cosiddetta, cioè la somministrazione massiva culturale e emozionale. Sono qui a tua disposizione, puoi chiedermi quello che vuoi, quando vuoi, giorno e notte. Non quindi... è quello che hanno sempre fatto i mafiosi, i camorristi nelle carceri. Quello che hanno fatto anche le sette sataniche. I culti settari utilizzano quindi questi meccanismi di svincolo morale poi dopo che... Ma nel caso diciamo del radicalismo islamico, del terrorismo, dell'ISIS, chiamano con il nome che vogliamo... Presuppone che dietro ci sia un metodo, quindi ci sono delle persone che hanno studiato, non è improvvisato, non si basano soltanto diciamo, su un'empatia generale, ci sarà una struttura che ha pensato e immaginato questo tipo di azione. Sì, possiamo dire che il formatore, il reclutatore, chiaramente non punta su persone che hanno già una chiara interazione sociale e una buona identità. Punta su coloro che sente a livello di percezioni emozionali e culturalmente apprezzabili, che possono essere così plasmati. E cosa accade? Che molto spesso noi ci siamo molto occupati dei mass murder, cioè gli assassini di massa, coloro che per ragioni di depressione personale loro, una bassa soglia di tolleranza allo stress... Quelli che sparano nelle scuole, per che dire. Sparano nelle scuole, in America c'è il mass murder, il classic mass murder chiamato nei blockbuster, nei McDonald's, eccetera, nei grandi assembramenti umani. In Italia non c'è il mass murder, c'è il family mass murder, cioè l'assassino di massa in famiglia. Lo sterminatore in famiglia. Lo sterminatore in famiglia. Ecco, il mass murder chi è? È una persona con bassa soglia di tolleranza allo stress, con, ahimè, purtroppo, una soglia di depressione particolarmente accentuata, e l'elemento pregnante, la miscela esplosiva, è completata appunto proprio dal narcisismo particolarmente accentuato. Però mi faccio capire, professore, questo mi interessa a questo punto. Finora si è suicidato, quindi... soltanto per dimostrare a tutti gli esseri umani quanto la sua vita valeva, a questo punto cominciano a chiedersi mass murder in potenza. Ma perché devo poi dopo uccidermi quando ho una nobile, tra virgolette, una nobile missione che potrei eventualmente compiere? Ecco che a questo punto assistiamo a personaggi che per problematiche proprie, esistenziali, non già necessariamente psicopatologiche, quindi per problematiche esistenziali al limite, diciamo così, con la psicopatologia, hanno bisogno, hanno necessità di esprimere quella che gli americani chiamano la sindrome di Sansone, cada Sansone con tutti i filistei. Questa sindrome di Sansone, mentre finora, fino a diverso tempo fa, si è espressa soltanto con un'azione di omicidio di massa fine a se stesso e quindi per rivendicare una priorità sociale, gli altri devono capire quanto io ho sofferto e quanto devono loro adesso espiare, le vittime sono solo capri espiatori, bravissimo, dov'è l'elemento pregnante ora, dove il reclutatore può fare breccia, anziché uccidermi soltanto per dimostrare quanto io sono forte, quanto male ho avuto da questo mondo, ho un credo, sposo il credo. Quindi a questo punto mi aspetteranno nell'aldilà 77 vergini. Non è un valore metafisico, ma è un appagamento di un piacere fisico, nella costruzione. Sì, egoistico. Tu ti ammazzerai, ma non perché, come gli eroi che noi conosciamo, muoiono per la patria, per l'ideale, no, muori perché ti fai fare una cosa che mai ti potrai sognare nella vita, averci un pacco di vergini a tua disposizione. Esatto, esatto. È terribile, esatto, come cosa. Abbiamo trovato proprio in internet il manuale del perfetto terrorista, concetto di 11 volumi addirittura della Jihad, e la versione ristretta è di 180 pagine che abbiamo tradotto in italiano. E quali sono i punti essenziali? I master, ci sono dei master di addestramento che durano da 15 a 45 giorni, i più semplici, fino a 60 giorni quelli più avanzati, e tra gli 11 requisiti di reclutamento prescritti, quindi sono il fatto che debba essere astuto, intelligente, calmo, capace di resistere all'arresto e alla prigione, di affrontare il trauma dell'omicidio e delle stragi, quindi quando si è impegnati in un'azione di spionaggio. Cioè gli fanno un assessment, come se dovessero assumerlo in un'azienda. Una formazione vera e propria. A questo punto scattano quelli che sono i meccanismi di svincolo morale, che sono ben quantificati da un autore, Bandura, il quale vide che si passa dalla giustificazione morale, cioè l'impegno internazionale di pace, oppure il salvare il gruppo dalla subordinazione di ideologie malvagie, oppure ancora la protezione dei propri valori. E si può ben capire che gli appelli morali contro la violenza in questo caso cadono nel vuoto perché raggiungono orecchie sorde. Poi abbiamo anche l'etichettamento eufemistico, ovvero sia non si parla di omicidio ma adempiere ad un contratto in modo onorevole. I terroristi quindi si definiranno combattenti della libertà, le loro azioni sono colpi di pulizia, operazioni chirurgiche, e quindi gli innocenti che uccidono verranno convertiti in danni collaterali. Sinteticamente, mi sembra di capire che un apparato così perfetto, però, non è nel retaggio culturale, tradizionale, tipico delle zone geografiche da cui nasce legna al terrorismo. Hanno ripreso sistemi con cui l'Occidente industrializzato gestisce la sua industria, la sua avanguardia sociale, e l'hanno spostata con concetti arcaici. Sì, mi risulta che peraltro anche un regista americano sia stato reclutato, e quindi molti fotomontaggi e molte costruzioni filmiche sono opere di azioni ben programmate. Allora fermiamoci un istante, diamo la linea, poi riprendiamo proprio con l'advertising, perché visto che è un'operazione importante, anche l'aspetto, diciamo, della comunicazione visiva avrà il suo valore. Ci fermiamo un istante. Venerdì 20 gennaio 2017, Radio 24 vi porta alla cerimonia di insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento in diretta, all'interno di Focus Economia, pochi minuti prima delle 18. Al portico est del Campidoglio si rinnova una tradizione iniziata quasi due secoli fa. I love this country. Thank you very much. Venerdì 20 gennaio alle 17:50 su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento Melog, cronache meridiane. Allora, siamo sempre con il professor Vincenzo Maria Mastronardi, ci stava illustrando quello che è il sistema, che è molto più complesso rispetto alle semplificazioni molto spesso vengono fatte quando si raccontano gli episodi di cronaca, di reclutamento e di formazione soprattutto del jihadista. Prima, dietro gli attentati di cui leggiamo poi, ahimè, l'esito finale nelle cronache, dietro un camion lanciato a tutta velocità, dietro una persona si fa esplodere, dietro a persone che vanno mitragliando nei locali pubblici, nelle discoteche, nei luoghi di raccolta, c'è una formazione vera e propria, con un sistema dietro, con un sistema che è stato collaudato per decenni nell'Occidente più avanzato come maniera per gestire le risorse umane che lavoravano nell'industria, nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia. Sì, esatto. Questo è quello che è avvenuto appunto in diversi settori. Noi, se prendiamo le sette sataniche, noi abbiamo proprio delle tappe di reclutamento, quali accennavamo prima, la love bomb, cioè la somministrazione massiva affettiva, emozionale, cioè, dove trovi uno che è a tua disposizione giorno e notte, qualunque cosa capiti puoi venire a disturbarmi, uno psicoterapeuta, non tanto, la moglie, il marito, ma cara sai, ho da lavorare, poi dopo, ma questo non è tipico dalle sette, però eccetto rari casi di situazioni criminali. Qui il finale ultimo è fare una strage e morire, sì, facendo una strage, certo, non è, certo, questione proprio secondaria. Convince una persona a morire, no, facendo una strage. Ecco, devi morire uccidendo, solo allora, se muori uccidendo, a questo punto avrai diritto a qualcosa di sovrannaturale per te e per la tua famiglia. Ma ovviamente non ci inventiamo nulla di nuovo, nel senso che proprio stiamo raccogliendo tutta una serie, ma non soltanto noi, una serie di giornalisti stanno raccogliendo tutte le testimonianze di persone che si sono pentite di aver aderito, e quindi coloro che ne vengono fuori. E le carceri sono, sì, è proprio vero, il primo luogo dove agire. Anche perché penso proprio in un posto di segregazione sessuale come la carcere, promettere poi un premio basato su una soddisfazione eterna dal punto di vista sessuale è già un fatto privilegiato. È un investimento affettivo emozionale che la persona fa, il solo pensiero che un giorno possa avvenire questa gratificazione già dà vita e sopravvivenza in un luogo buio o in un luogo grigio, quali appunto sono le carceri, che non promettono nulla di piacevole, ma soltanto sofferenza. E la cosa grossa è che vengono lasciati a se stessi, non c'è uno psicologo, non c'è una persona, appena entrano, sì, tu vai con tu cosa sei, io musulmano, vai con gli altri musulmani, eccetera. Non c'è una integrazione, quindi non c'è una rete propria di protezione, non c'è gioco facile anche un filtro, è gioco facile questo, raccogliendo tutte le testimonianze che sono venute fuori, pubblicate, e ormai ne stiamo raccogliendo di tutte e di più, ahimè. Ma la stessa persona che fa il reclutatore, lui ha bisogno di credere in se stesso, in quello che mi sembra che assomigli un po' al meccanismo. Se capita mai in una famiglia che, non so, i coniugi si separano, c'è un divorzio, c'è un lutto, c'è qualcosa di grave, puntualmente bussano i testimoni di Geova. Anche perché molti portieri, almeno nella città di Roma, sono testimoni di Geova e segnalano le persone che sono in un momento di particolare debolezza. Questo accade anche con le organizzazioni religiose cristiane, sempre. Nel momento in cui sei più debole, sei molto più propenso a dare ascolto a persone che ti avvolgono, ti proteggono. Il meccanismo è lo stesso. Si cercano persone deboli in un momento di massimo spesamento, di massima solitudine, e si vende il pacchetto del conforto e dell'elevazione da questa condizione. Ecco, più che si è più propensi, no, si ha bisogno, io direi, proprio si ha bisogno di aderire ad un credo, si ha bisogno di aderire a qualcosa che vicari una sicurezza, che sostituisca una sicurezza effimera, che sia una sicurezza esistenziale. Se le vai nei centri di meditazione strana, singolare, parallela, parabuddista, parareligiosa, tra una percentuale di persone sole altissime, di separati, di divorziati, certo, di abbandonati, di depressi, certo, è chiaro, certo, che lì trovi, certo, poi delle forme di compensazione, certo, solo che quelli lo possono farlo, è lecito, facciano la loro vita e si sanino le loro ferite come meglio credono. qua il problema è che poi queste persone agiscono nella società in maniera cruenta. Sì, purtroppo, ahimè. Andiamo avanti con la formazione, perché mi interessa. Cos'altro avete scoperto? Dunque, che nella formazione appunto non c'è soltanto l'impegnarsi in un'azione di spionaggio proibendo quindi il bere o avere rapporti sessuali, ma se si opera sotto copertura in Occidente, ipotesi prevalente, si possono dimenticare le tradizioni e i precetti musulmani. In questo modo sarà più facile ingannare il nemico. Quindi possono fare anche una vita dissoluta e peccaminosa, secondo il canone religioso, per rimanere in copertura. Sì, perché quindi c'è ragione chi dice però che le moschee alla fine sono i posti meno pericolosi. È giusto costruire moschee, perché nelle moschee ufficiali è difficile poi si trovino questi tipi di diciamo di meccanismi di reclutamento. Dipende, qui c'è un'indagine in atto e quindi che non è nostra, e quindi mi fermo ovviamente perché non voglio pronunciarmi in merito all'argomento moschee, ma quello che dicevamo prima sui meccanismi di svincolo morale passa appunto dall'etichettamento eufemistico, quello dicevamo prima, cioè non sono omicidi, sono colpi di pulizia, sono operazioni chirurgiche, dicevamo. Il meccanismo di disimpegno morale affronta anche le giustificazioni morali a se stessi, cioè la dislocazione delle responsabilità. Dice: io ho solo obbedito a degli ordini che mi sono stati dati. Viene responsabilizzato dell'aspetto, diciamo, del senso di colpa possibile. La diluizione delle responsabilità. Quindi io ho soltanto fatto il palo, l'altro che ha ucciso, oppure se sono stato io ad uccidere perché ho avuto l'ordine. La diffusione delle responsabilità. La non curanza o distorsione delle conseguenze, cioè non crediamo a questo punto che ci sia un senso di colpa, poi dopo, a posteriori, no. Anzi, c'è una contentezza per aver compiuto questa nobile missione. Che anche perché poi non c'è nemmeno il tempo di avere il senso di colpa, che poi si salta in aria o si viene ammazzati, quindi non c'è il tempo di reazione. Esatto, poi c'è la deumanizzazione, cioè le vittime potenziali non sono più viste come persone con sentimenti, speranze o interessi, ma come oggetti subumani, cioè vengono raffigurati come selvaggi, persone di colore, indemoniati, senza capacità di giudizio. Quindi l'attribuzione di colpa poi è il meccanismo ultimo che così completa il quadro, per cui gli antagonisti raramente sono innocenti. È sempre possibile selezionare la catena degli eventi, cioè sono comportamenti difensivi. Noi siamo vittime, noi abbiamo bisogno di difenderci dagli avversari. Ecco, perché è importante, insomma, Stonandi, questo lavoro che state facendo voi? Perché date degli strumenti innanzitutto di reazione preventiva, perché è giusto, è normale, è naturale, anzi è auspicabile che vengano individuate le cellule, vengano scoperte le persone, vengono arrestate le persone, vengono fatte delle azioni di polizia. Ma siccome il fenomeno non mi sembra che è un fenomeno che tenderà a esaurirsi nei prossimi mesi, ma nemmeno nell'immediatezza, quale può essere un'azione proprio da criminologo preventiva per porre delle barriere prima che questi strumenti siano efficaci? Multidisciplinare. Cioè deve essere non soltanto relativamente alla prevenzione in carcere. Vabbè, quindi l'intelligence fa il suo lavoro, la polizia fa il suo lavoro. Tolto quello, qual è il vostro lavoro? Ecco, un brainwashing all'incontrario, cioè la prevenzione, mentre il brainwashing, cioè il lavaggio del cervello negativo, è quello che porta poi per gradi lentamente il reclutatore, quindi a convincere, o più che convincere, a persuadere, che è più profondo che convincere. Come dei condizionatori delle sette, quelli che prendono le vittime delle sette e riportano. È quello che dicevamo prima. Infatti è proprio esattamente così, all'incontrario, prevenire questo. Ma perché accade questo? Perché rimangono soli, quindi non hanno alternative. Non ci sono alternative. In Svezia il fenomeno viene affrontato dando già da subito delle alternative nelle carceri. cioè non lasciandoli soli, ma comunicando, facendo in modo che comunichino con tutti quanti. Se noi vediamo cosa accade abitualmente nelle carceri, si va dietro alle risse, alle persone che litigano appunto per una bottiglia di birra o una bottiglia di vino, ma non ci si preoccupa. Sono anche strumenti tipici per indurre poi al bisogno di protezione. Esatto, non ci si preoccupa invece di coloro che stanno lì, cupi, sempre zitti, senza riuscire a comunicare con altri esseri umani, che non appena, ecco, sono i più labili, i più fragili. Certo, questo richiede un bel impegno, richiede che c'è una situazione carceraria disastrata, già in un'attenzione molto scarsa per tipi di detenzione di ben altra matrice. Pensare che su i detenuti da provenienza islamica occorre fare un discorso preventivo così forte, così capillare, soprattutto che richiede un'attenzione specifica. Di tutti, nessuno escluso. Non è soltanto un compito, appunto, in cui ha da preoccuparsi solo il magistrato o il politico, ma è diventato un problema che, investendo tutta l'umanità, preoccupa la responsabilizzazione e impone la responsabilizzazione di uomini, donne di ogni paese. Quindi, io concluderei per ora con una frase che mi sta venendo in mente di Pericle: Dio, dacci la forza di cambiare le cose che possono essere cambiate, dacci la tolleranza per sopportare le cose che non possono essere cambiate, sì, ma dacci soprattutto l'intelligenza per distinguere le une dalle altre. Ecco, molte volte il principio di tolleranza ne è visto un principio di debolezza, in questo caso significa fornire degli strumenti di autodifesa preventiva. Sono quelli che ci impediscono poi, ci impediranno poi di piangere i nostri morti e di vedere le stragi nelle nostre piazze. Certo. È un lavoro complicato, è un lavoro senz'altro che chiede strumenti scientifici molto raffinati. È importante, questa è una cosa totalmente nuova per me, che sapere che l'Accademia e l'Università sta studiando attentamente questo problema. Non è soltanto roba da investigatori, da poliziotti o da magistrati, ma anche roba da persone che studiano la mente umana, perché nella mente umana è proprio anche il principio della caotica dissoluzione che porta esseri umani a fare stragi di altri esseri umani. Grazie professor Mastronardi. Grazie a voi. Melog, cronache meridiane. Vediamo in questa ultima parte della trasmissione di centrare in maniera più tecnica il problema. Il professor Mastronardi ci ha spiegato quello che è un'operazione di tipo culturale che fanno varie università in Italia per cercare di capire quali sono gli strumenti, le metodologie di approccio che hanno i mandanti, le cellule del terrorismo di matrice islamica per trovare nuovi adepti. Adesso vediamo di capire però il problema da un punto di vista più tecnico, più legato alla gestione quotidiana delle carceri. Abbiamo al telefono Alfredo Mantici. Mantici, buongiorno. Buongiorno. Mantici è stato spesso nostro ospite, è direttore della rivista geopolitica Lookout News, ex capo del Dipartimento Analisi del SISDE. Al di là di quanto ci ha detto il professor Mastronardi, diciamo, su le tecniche psicologiche somigliano molto alle tecniche di vendita o di marketing che venivano messe a punto nelle aziende per formare i venditori, per formare gli agenti di commercio. Qual è invece il grado di attenzione proprio logistico, tecnico, che si può avere, che si ha e ci si aspira che ci possa essere nelle carceri italiane? Ma il grado di attenzione è sicuramente il massimo, perché le autorità sono state sollecitate da voi del mondo della stampa, ma anche dalle istituzioni, a prestare attenzione a questo problema. Il problema reale è che forse per esercitare un controllo efficace bisognerebbe cambiare norme e regolamenti carcerari. Mi spiego. In questo momento in carcere possono operare, dal punto di vista istituzionale, soltanto gli agenti della polizia penitenziaria. I poliziotti normali, per parlare con un detenuto, devono avere l'autorizzazione per un colloquio investigativo dal magistrato di sorveglianza, mentre i servizi di intelligence semplicemente non possono entrare nel circuito carcerario. Allora, tutta la difesa nei confronti del problema della radicalizzazione è sulle spalle di personale che non ha ovviamente, ma perché nessuno glielo ha chiesto e nessuno glielo ha fornito, il know-how per gestire il problema degli islamisti. Anche perché in questo momento mi sembra che occorra una formazione ben specifica. Innanzitutto parte da delle basi linguistico-culturali, esatto. Poi di conoscenza più approfondita di quello che è il meccanismo, la struttura. E di conoscenza delle varianti, salafiti, wahhabiti, la differenza tra sciiti e sunniti. Cioè bisogna avere una conoscenza tecnica specifica del problema e delle persone. Quindi noi in questo momento lasciamo la vigilanza sul fenomeno soltanto a una struttura alla quale però nel contempo non abbiamo fornito alcuno strumento né culturale né specifico di monitoraggio, per cui ci affidiamo molto alla fortuna. Ora, noi sappiamo che le carceri sono l'università del crimine, uno entra in carcere per uno scippo ed esce rapinatore e poi rientra come truffatore, cioè in carcere si impara, e quindi questo evidentemente vale anche per gli estremisti. Io entro in carcere che sono moderatamente credente, però sto 24 ore al giorno in una cella dove si prega, si discute, si racconta, e un po' come in una pentola a pressione dove tutto viene accelerato, tutti i processi diventano, cioè per le leggi della termodinamica, più veloci, così il processo di acculturazione prima e di estremizzazione poi è più facile. Quindi, ripeto, bisognerebbe... Quindi lei dice, Mantici, che in realtà diciamo la scuola primaria, diciamo, di primo grado di potenziali e probabili terroristi avviene in un luogo assolutamente protetto, chiuso, sorvegliato, che sono le carceri, dove hanno tutto il tempo a disposizione che vogliono, hanno una struttura che li ospita. E nessuno che li ascolta, e se li ascolta li capisce. Cioè, ecco, in questo caso... Quanti questo... nostri agenti parlano arabo? Ma quanti poi hanno la capacità e gli strumenti... Cominciamo con l'arabo e poi parliamo dell'islamologia, però intanto cominciamo con l'arabo. Allora, bisogna cambiare i regolamenti, bisogna consentire agli arabisti, e ce ne sono di fior di arabisti, dei servizi di informazione, delle agenzie di informazione e sicurezza, di accedere a questi settori ai quali è loro vietato di accedere. Ecco, ma perché è vietato? Qual è la parte che espressamente vieta queste persone? Nicoletti, quando si scrivono le leggi vengono spesso scritte anche sotto la spinta dell'emozione. L'emozione generale italiana è che i servizi tendono a deviare, tanto che se lei vede l'ultima legge, la 124 del 2007, ci sono norme assurde per un paese democratico. Per esempio, agli appartenenti dei servizi è vietato avere rapporti professionali con sindacalisti, membri del clero e giornalisti. Quindi si dice: voi potete inquinare questi tre settori, viene vietato avere rapporti. Finché le leggi si fanno così, poi non si può dire: ah, i servizi funzionano poco, ma vediamo quanti vincoli abbiamo messo a questi servizi. Beh, in questo caso mi sembra particolarmente delicata e particolarmente diciamo pericolosa la mancanza di personale specializzato. Ma ammesso che ci fosse una legge che permettesse questo ingresso di personale di intelligence specializzato anche nelle carceri, quale sarebbe il tipo di azione? Interrogatori? Il tipo di azione è il monitoraggio. Monitoraggio. Quindi si mettono delle telecamere e si ascolta, però, e si capisce quello che dicono. Dopodiché... questo non avviene. Se io volessi avere un'intercettazione di quello che avviene in una cella, ci sono persone che posso sospettare, cosa dovrei fare? Un esempio tecnico. Un esempio tecnico è chiedere al magistrato l'autorizzazione, mettere la microspia o la telecamera e poi ascoltare. Ma questo viene fatto quando già si ha un'idea che stia per succedere qualcosa. Non viene fatto come monitoraggio quotidiano costante, come filtraggio costante di tutte le aree nelle quali sono collocati gli islamici. Anche perché mi sembra di aver capito, da quello che diceva il professor Mastonardi, che poi la tendenza è mettere tutte assieme le persone che secondo un sommario appartengono alla stessa specie, quindi stanno tutti assieme. nei venti Nicoletti, come facciamo a mettere nella stessa cella tre italiani e tre tunisini che non parlano italiano? Certo. Cioè diventa un eccesso di pena, cioè io sto in cella con delle persone con le quali non posso parlare, per cui normalmente si va per gruppi omogenei e allora diciamo gli arabi, i nordafricani finiscono tutti insieme, perché almeno possono avere un minimo di socialità anche all'interno delle quattro mura del carcere, che possono chiacchierare, e di questo approfittano gli apostoli, quelli che indottrinano. L'ultima domanda, Manzi, secondo lei c'è proprio una strategia precisa proprio nel mandare persone nelle carceri che svolgano questa funzione? Perché so che, ad esempio, che ne so, le persone che in qualche maniera gli imam possono entrare nelle carceri a parlare con le persone. Sì, possono, ma il problema è cioè l'idea che uno si faccia arrestare per poi compiere un'operazione di indottrinamento è molto romanzesca. Ecco, non può esistere. Molto più semplice è che nelle maglie dell'attività di prevenzione e di repressione finisca l'estremista e che, se deve stare 3 anni in carcere, gli passa a raccontare la sua versione del Corano ai suoi 7-8 compagni di cella. Beh, noi, se lei si ricorda, Manci, qualcosa del genere abbiamo già visto. Ricorda al tempo del terrorismo politico in Italia, c'era sempre il brigatista che in carcere poi faceva nuovi adepti, gente usciva e diventavano affiliati. No, questo non direi. Dunque, c'era la polemica, io c'ero a quel tempo perché sono abbastanza vecchio, c'era il problema dei braccetti speciali, dell'articolo 90 del regolamento, per cui i brigatisti venivano messi non soltanto tutti insieme, ma anche divisi per gruppi omogenei a seconda delle diverse fazioni interne delle Brigate Rosse. Quindi gli si ridava una sede operativa praticamente. Sì, questo per evitare che si ammazzassero a vicenda, perché c'è stato un periodo negli anni 80 che i movimentisti e i militaristi si odiavano, per cui poi ci sono stati anche degli omicidi in carcere. È accaduto. Allora, bisognava evitare che queste due fazioni venissero a contatto, allora venivano discriminati e messi insieme secondo, infatti c'era la cosiddetta area omogenea di Re Bibbia, l'area omogenea era dove stavano tutti i dissociati. Quindi no, sul terrorismo interno è stato fatto un buon lavoro anche dal punto di vista di controllo, però erano altri tempi, i servizi facevano operazioni all'interno delle carceri, anche noi reclutavamo all'interno delle carceri, però c'era un altro atteggiamento e c'era una possibilità, sa com'è, la società italiana era spaventata dal terrorismo brigatista, per cui veniva consentita ai servizi. Ci si appoggiava su un consenso generale, certo, più omogeneo. Un consenso generale, e ai servizi venivano consentite cose che oggi non verrebbero consentite, come quella di lavorare nelle carceri. La soluzione potrebbe essere un passo avanti, quindi fare questo tipo di modifica del regolamento, secondo lei? Secondo me sì, monitoraggio costante affidato non soltanto a chi deve vigilare sulla sicurezza dei detenuti, ma a chi deve vigilare su che cosa dicono, come lo dicono e perché lo dicono. Chi fa operazioni di intelligence nell'interesse del paese. Grazie Alfredo Mantici, alla prossima.